come ho fatto queste slide, che secondo me è un grande brivido. Perché così, guardate che belle queste slide. Aspetta, quali slide? Ecco, si è rotto tutto. No, dove sono andate le slide? Allora, queste slide bellissime, guarda che belle, vedi, fai così, così, in HTML. Allora, cosa ho usato? Ho usato un programma, ragazzi, che è la fine del mondo, che si chiama Zim, e che ci puoi fare veramente un sacco di cose stupide con Zim, ma anche utilissime. E a parte che puoi avere, vedi, tutte le cose che hai nella vita, le scrivi qua, no? Poi fai le slide, vedi, gli metti i marker, scrivi il markup suo, però, in realtà, perché non è il markup di nessun altro, e poi gli dici export. E puoi esportarle in un sacco di modi simpatiche. Vedi, puoi esportare innanzitutto anche le sottopagine, però forse non si vede molto perché la luminosità di sto robo è al massimo. Se possiamo pure abbassare un po'. Ma non credo che aiuti in realtà. Ok, vabbè, ci accontentiamo. Vabbè, comunque vai export, vedi, e puoi esportarle in HTML, così anche non capisci un cazzo di come funziona HTML perché non ti sei mai voluto impegnare a capire che cosa sono i dev. Però poi comunque puoi avere delle slide in HTML e questa cosa mi ha reso molto felice, quindi ora ho delle slide in HTML e ci ho messo poco. Non so molto. Zim, è tipo un quadernone in cui ci puoi mettere i tag, molto molto bello. Un giorno uno dovrebbe fare un talk su Zim all'Hackmeeting. Chissà. Vabbè, allora io direi che siccome si sono fatte esattamente le 4, possiamo cominciare con questa carrellata di idee. Allora, io all'inizio mi ero proposto di fare un talk super esaustivo così per raccontare proprio delle cose vere. Poi in realtà, cioè, per chi mi conosce, mi conosco anch'io, mi sono reso conto che era pressoché difficile. E quindi ho cercato di fare piuttosto una carrellata di idee che arriveranno fino ai processori della Intel e che però comunque, ecco, non avrò la pretesa di essere esaustivo anche perché molti dei temi che toccherò sono abbastanza complicati. Io per esempio capisco veramente un cazzo di come funziona un processore all'interno proprio dell'elettronica, quindi magari dirò quali sono le idee su cui l'hanno costruito, però non vi aspettate che vi racconto come ha fatto il chipset neuromorfo della Intel perché l'ho capito io a malapena. E vabbè, l'idea qual è? È parlare di sta roba che so i neuroni. E i neuroni sono. Vabbè, la presentazione sarà divisa in tre parti, ecco, forse questo viene prima. Nella prima parte parlerò un po' dei neuroni e degli studi che sono stati fatti negli ultimi 70 anni, di fatto, cioè almeno dal punto di vista della risposta elettrica, perché a sezionare i cervelli erano capaci pure all'inizio del Novecento. Tra l'altro le cose che sappiamo adesso sono dovute in particolare al lavoro di uno che ha fatto studi nell'inizio del Novecento e si chiama Ramón y Cajal, un ricercatore spagnolo. E veramente, cioè, è paradossale che dopo 100 anni ancora le cose che ha detto lui sono molto rilevanti, perché di fatto fare ricerca su questo tipo di cellule è molto difficile. Quindi la prima parte sarà parlare un po' dei neuroni, come funzionano e dei modelli che si possono fare di neuroni. La seconda parte sarà degli algoritmi che si possono fare per dei sistemi computazionali fatti con questi neuroni. Poi, secondo come ci avete voglia voi, parliamo un po' di neuroscienze computazionali o cognitive, per il poco che ne so. E poi, alla fine, ecco, parlerò brevementissimo di questi tre chip, che di fatto sono pensati per il grande mercato, però ancora non sono nel mercato, credo che da qua a 2 anni lo saranno. Diciamo che la parte su cui cercherò di concentrarmi è perché questi chip sono interessanti per il mercato dell'informatica oggi, che comunque richiedono un enorme investimento in ricerca, è una roba che non sta dando risultati perché comunque hanno iniziato a implementarli più di 6-7 anni fa e continuano a farci ricerca molto astratta sopra, anche legata appunto alle neuroscienze, però capire perché queste persone ci spendono tutti questi soldi secondo me può essere interessante anche per una discussione più ampia. E quindi i neuroni, allora i neuroni sono le cellule del sistema nervoso e in realtà stanno anche fuori dal sistema nervoso centrale, stanno anche sparse nel corpo e ce ne stanno tipo 10 miliardi solo nella corteccia e poi ce ne saranno un'altra dozzina di miliardi nel cervelletto, solo quelli del cervelletto sono meno studiati perché sono piccoli, è difficile studiarli e sembra che siano meno interessanti, non ho ancora davvero capito questa cosa. Comunque i neuroni sono fatti più o meno così. Hanno un corpo cellulare, sono cellule come tutte le altre, cioè insomma, hanno le stesse proprietà, quindi una membrana cellulare, i mitocondri, un nucleo dove c'è il DNA dentro, queste cose, e però poi hanno una forma molto particolare perché è una forma orientata, diciamo. Quindi hanno una parte che è quella che vedete qui in figura, in realtà non è davvero così, cioè, questa è un'idealizzazione di alcuni tipi di neuroni. E questa parte qua riceve il segnale in ingresso e si chiamano dendriti. Non ho mai capito se i dendriti o le dendriti. E questo qua invece è l'assone, che invece è maschio perché è dritto. E l'assone è invece quello che manda il segnale altrove. Quindi, così, insomma, per dare il senso alle parole. E alla fine dell'assone si collega con altri dendriti. E lo fa attraverso le sinapsi. Ok, sulle sinapsi dopo c'è un'immagine un po' più bella. Comunque, l'idea in generale è che questo tipo di cellule si trasmettono dei segnali elettrici, in realtà dei segnali elettrochimici, perché la comunicazione tra una cellula all'altra, tra una cellula e l'altra è di tipo chimico e non elettrico, attraverso i canali di sodio e potassio, e in realtà attraverso tutta una serie di neurotrasmettitori. Che sono quelli che. Vabbè, ma questo dopo ne parliamo quando facciamo le sinapsi. E quindi questi. Ah, infatti, sono arrivate le sinapsi. E le sinapsi che fanno? Praticamente succede che il segnale elettrico si trasmette attraverso l'assone. Il segnale elettrico funziona tipo così. Aspetta. Allora, succede che praticamente gli arriva il segnale alle dendriti. Quindi le sinapsi che stanno di qua rilasciano questi neurotrasmettitori. Questi neurotrasmettitori aprono dei canali ionici, che sono praticamente delle particolari buchi all'interno della membrana che hanno la capacità di pompare ioni dentro e fuori. Quindi c'è tutto un equilibrio elettrochimico, diciamo, molto preciso, che fa sì che il potassio sia, a più alta concentrazione fuori e il sodio sia a più alta concentrazione dentro, o l'inverso, non mi ricordo mai. Comunque succede che quando questi canali ionici ricevono i neurotrasmettitori, si aprono e nell'aprirsi mandano degli ioni fuori, degli ioni sodio fuori. Questi ioni sodio che vanno fuori di fatto abbassano la differenza di potenziale tra dentro e fuori la cellula e a catena si aprono altri canali ionici. Cioè è abbastanza complicato, c'è tutta una zoologia dei canali ionici che è molto molto complicata, ce ne stanno tipo migliaia di tipi e ne vengono studiati principalmente tre che sono quelli iodio, sodio, potassio e calcio, però ce ne stanno veramente un'infinità che hanno dei meccanismi anche d'apertura molto fini, molto regolati biologicamente. Infatti questa è anche una un po' delle complicazioni delle neuroscienze che magari ne parliamo tra poco. Quindi l'idea qual è? Che questi canali si aprono, fanno cambiare il potenziale interno e grazie al lavoro di questo simpatico tipo qua che ha fatto queste animazioni in JavaScript, noi possiamo vedere come funziona un neurone. Allora, questo qua è un modello, cioè questa roba è stata trasferita in un modello matematico, che lo vediamo tra poco il che tipo di modello è. E quello che succede è che praticamente noi abbiamo che anziché avere un ingresso di corrente discreto, in questo caso la linea sotto è il quanta corrente stiamo dando al neurone, quindi quanti ioni stiamo infilando dentro la membrana, e praticamente succede che cambiandola, che ora dovrebbe vedersi che cambia, eccola. Se cambia, succede che questi canali ci mettono di più ad aprirsi, e però siccome questa corrente è costante, alla fine poi si aprono. In realtà i neuroni veri non sono così, perché dopo un po' che la corrente è entrata, poi la risputano fuori. Quindi si dice che sono leaking, cioè che perdono corrente attraverso la membrana. Quindi un po' di sti ioni entrano e poi vengono risputati fuori. Quindi l'idea è che praticamente queste sinapsi attivano fanno entrare gli ioni, questi ioni aprono a catena dei canali e quando si sono aperti abbastanza, quello che succede è che hanno questo comportamento qua che si chiama il comportamento d'eccellenza, proprio questa parola usano, comportamento d'eccellenza dei neuroni, cioè praticamente sale lentamente, poi quando arriva al di sopra di una certa soglia che è meno 60 millivolt, in realtà è più alta di meno 60 millivolt, quando arriva al di sopra di una soglia praticamente tutti i canali si aprono insieme e quello tira fuori un sacco di corrente, quindi ha un picco di corrente che lo porta dall'essere molto al di sotto del voltaggio della matrice cellulare esterna a essere 30 millivolt al di sopra della matrice cellulare esterna. Quando succede questa cosa, altri canali ionici si aprono, che sono quelli del potassio stavolta, e il potassio comincia a fluire dentro, quindi il sodio ha mandato la tensione in su, perché uscendo ha abbassato la quantità di carica elettrica all'interno della membrana. Il potassio invece rientra dalla finestra e lo fa in maniera molto molto più rapida del sodio e nel frattempo i canali sodio si esauriscono, cioè praticamente vanno in saturazione, sì, in realtà si chiamano, entrano in un periodo refrattario, cioè hanno pompato molto in quell'intervallo di tempo e quindi non riescono a pompare di più. Nel frattempo entra il potassio che ritorna, che riporta giù il potenziale e quindi di fatto abbiamo sto picco che può essere considerato in qualche modo una delta, un picco discreto nel tempo, cioè il tempo caratteristico di quel picco è intorno ai 2 millisecondi e diciamo che in tutte le applicazioni in tutti gli studi di neuroscienze viene considerato come proprio un evento discreto, cioè uno spike, uno solo, no? E quello che succede poi è che appunto la membrana ritorna giù, si iperpolarizza perché va a meno 70 millivolt e una volta che si è iperpolarizzata ci mette un altro po' di tempo per ricaricarsi e tornare su. Allora il punto è, come vedete, esistono diversi tipi di modelli di neurone e il più vero di tutti, quello che assomiglia un po' di più alla biologia è un modello che è stato fatto negli anni 60 e si chiama Hodgkin e Huxley e lo so che sta giù alla fine. Eccolo qua, è una roba fatta così, praticamente hanno riprodotto la membrana con un circuito, che è un circuito che ha un capacitore, che è appunto il capacitore proprio della membrana, il fatto che dentro c'è una corrente positiva e fuori una corrente negativa, e poi ci stanno delle conduttanze che invece sono variabili nel tempo, questa è quella di leaking, cioè il fatto che come vedete c'ha questo qua che rimanda la tensione a zero, sì vabbè insomma comunque la corrente fluisce in questo verso qua, e queste qua invece sono i canali del sodio e del potassio. Quello che succede è che praticamente, io qua non credo di avercela perché non è che volevo fare una lezione sul modello Hodgkin-Huxley, solo quello che succede è che quelle due G là variano nel tempo in funzione del potenziale. E nel loro variare nel tempo in funzione del potenziale creano quell'impennata che abbiamo visto prima. Questo modello funziona moltissimo bene, cioè riesce veramente a riprodurre molte cose di un neurone spiking, solo che è molto pesante da implementare a livello computazionale, quindi di fatto non lo si usa. In più c'è il problema che c'ha un sacco di variabili, cioè ci sono due variabili qua dentro e una variabile qua e poi c'è il voltaggio, e quindi sono quattro variabili, che in generale sono tante, perché negli studi di matematica, cioè, gli piace fare queste cose qua, che mi sembra ce n'erano qua, queste qua sono dei modelli di sistemi dinamici, che praticamente fanno vedere, ad esempio qua il neurone sta facendo spiking, quindi il voltaggio sale e poi ridiminuisce, come nel picchio sopra, no? Solo che queste cose si vedono bene in due dimensioni e non in quattro, e quindi di solito si prende un modello a quattro dimensioni, si prende a calci, si riduce la dimensione, scegli i tempi scala che credi che siano più importanti e lo riesci a portare in due dimensioni in cui riesci a studiare questa cosa. Però ovviamente quando prendi un modello a quattro dimensioni e lo porti in due dimensioni, poi non è più esatto come nell'altro caso. Vabbè, ma questi sono deliri di neuroscienze teoriche, se non li potevamo skippare. Comunque questa qua è alla fine è il classico robo che si studia nelle neuroscienze computazionali. Tu c'hai praticamente che questo è il potenziale di membrana, quindi quella cosa che saliva e si abbassava, E questa è una variabile temporale che è data dal mescolare varie scale. Vabbè, è una variabile d'appoggio di fatto, che non ha proprio un vero senso biologico, però matematicamente sì. E praticamente il neurone fa sto giro col potenziale, e nel fare questo qua, queste parti qua sono molto veloci, mentre queste qua sono quelle lenti refrattarie. E vabbè, questo è si chiama ciclo limite. Se poi vi interessa sta roba, ne parliamo. Ma non credo che vi interessa. Comunque, invece, tornando a noi, quindi abbiamo più o meno capito come funziona l'attivazione del neurone? Sì, no? Dai, figo, no? Vabbè, quindi, alla fine, che serve per riprodurre sta roba? Cioè, se uno vuole prendere sta roba e farla sul computer, come si può fare? Allora, uno prende un set di equazioni differenziali, cioè ogni neurone ha un'equazione differenziale, no? La prima approssimazione da fare qual è? È accettare che questi neuroni non hanno spazio fisico vero, ma siano puntiformi. Quindi ogni neurone è un punto nel tuo spazio, e a ogni neurone è associato una coppia di equazioni differenziali. Una coppia perché appunto è più facile studiarla matematicamente, però in realtà ce ne puoi mettere anche una, tipo in questo caso qua, cioè quella sotto è una roba di reset. E la descrivi con una sola equazione. Più equazioni ci metti, meglio viene il modello, solo che è più difficile poi da trattare sia matematicamente che da simulare a computer. Comunque tu ci metti questo set di equazioni differenziali, ad esempio questa equazione qua che si vede a malapena, e comunque è un'equazione che dice che il voltaggio, quindi c'è la derivata del potenziale di membrana dV su dt, e un tempo caratteristico che è il tempo del capacitore della membrana. Fa leaking, quindi tira a stare a zero, cioè come tu gli dai un voltaggio, quello poi l'equazione differenziale è negativa se il voltaggio è diverso da zero, e quindi tira verso lo zero, quindi perde corrente, però gli vai aggiunta tutta la corrente che gli arriva dalle sinapsi. Quindi fondamentalmente sta cosa, se tu gli dai abbastanza corrente, quello arriva sopra una certa soglia. E in questo caso, a differenza di Hodgkin e Huxley, in cui c'era proprio il modello, cioè proprio l'equazione matematica originava il picco, in questo caso questa equazione non dà origine al picco, però se tu arrivi sopra una certa soglia, quindi ci metti degli if nel ciclo, se tu arrivi al di sopra di una certa soglia e lo rimetti alla soglia di reset, e vabbè, sta soglia è la soglia threshold, che è intorno ai 30 millivolt. In realtà queste cose poi perdono un po' l'aderenza con i numeri della biologia, cioè diciamo che non è davvero un potenziale quello, cioè quella è una variabile che tu la setti affinché riproduca quella dinamica, però non è davvero la stessa cosa. Quindi comunque c'hai queste equazioni differenziali che infili dentro al computer tuo e ci metti una matrice di connettività. Io questa matrice avrei potuto descriverla con una bella immaginina, ma non l'ho fatto, e quindi ve la descrivo a voce. Una matrice è praticamente ogni neurone è connesso con altri neuroni. E questa cosa non l'ho detta, ma all'interno del sistema nervoso, per esempio umano, non credo sia lo stesso per quello degli altri animali, no, ce ne saranno sicuramente di meno, però ci sono anche animali che hanno di più dei neuroni, forse, non lo so. Comunque, all'interno del sistema nervoso umano ci stanno 10 miliardi di neuroni, e ogni neurone ha 10.000 connessioni, quindi ci stanno 10 alla 14 connessioni. Ovviamente, avendo 10.000 connessioni, non è che un neurone è connesso con tutti. È connesso con al limite altri 10.000 neuroni. E quindi praticamente questa matrice è di fatto una matrice di tipo locale, cioè ogni neurone è connesso con i neuroni che gli stanno vicini. Poi in realtà, e questa è la grande magia del sistema nervoso, alcuni neuroni sono connessi con neuroni che stanno più lontani. E quindi c'è sta roba che, se avete mai sentito quest'idea, si chiama teoria dell'informazione integrata, è un modello matematico per descrivere la coscienza, molto powerful. Sì, proprio. E praticamente dice che un sistema, cioè che questo tipo di sistemi funzionano su due regole: integrazione e isolamento, sì, e isolamento. L'integrazione è il fatto che esistono dei componenti che portano l'informazione altrove, e l'isolamento è il fatto che comunque la maggior parte della computazione e del processamento delle informazioni è di tipo locale. Quindi ogni zona fa più o meno i cazzi suoi, però poi viene oculatamente integrata con le altre zone. E poi possiamo dire due parole su perché sta roba funziona. Vabbè, Vabbè, comunque, e poi invece c'è una descrizione matematica delle sinapsi, che vuol dire? Vuol dire che quel rilascio dei neurotrasmettitori lo puoi modellare un po' alla come ti pare, cioè puoi metterci delle equazioni moltissimo complicate che riproducono effettivamente il comportamento biologico, cioè tu prendi la cellula, ti metti là sotto al microscopio, ci infili un elettrodo dentro e induci la corrente nel neurone presinaptico, aspetti che il neurone presinaptico fa uno spike e poi ti metti un altro elettrodo nel neurone postsinaptico e vedi come aumenta la corrente che passa. E questa roba è descritta dalle equazioni con degli esponenziali, sono abbastanza complicate, in realtà non ci ho mai lavorato con quelle, e quello è molto biologico, però anche in quel caso se lo vuoi mettere nel computer poi fai fatica e quindi in realtà fai delle cose più semplici in cui ci metti delle equazioni sceme e ci inserisci una plasticità che vediamo tra poco. Qui, ok, la vediamo subito la plasticità. Allora, l'idea qual è? È che praticamente questa matrice che abbiamo descritto ci avrà dei pesi che in questa equazione molto scritta in piccolo qua sono, ovviamente queste slide sono fatte veloci, mica sono fatte bene. Quell'equazione scritta in piccolo qua dice che dice delta W è uguale a eta x i y. Allora, delta W è quanto cambia l'intensità di quella sinapsi. Cioè, che succede? Che come abbiamo visto qua, queste sinapsi che fanno? Gli arriva il voltaggio attiva dei canali calcio, questi canali calcio fanno sì che delle vescicole sinaptiche si aprono, all'interno di queste vescicole c'erano dei neurotrasmettitori. Questi neurotrasmettitori fluiscono all'interno di sta roba che si chiama cavità sinaptica, synaptic cleft, sì, non so se vuol dire cavità, e praticamente attivano i canali ionici dall'altra parte. Ora, quanti neurotrasmettitori ci stanno qua dentro, quindi come il postsinaptico rilascia il segnale, o quanti canali ionici ci stanno qua sotto, definisce quanta corrente poi il neurone riceve. Perché se ci stanno un sacco di canali ionici, tutto il neurotrasmettitore viene catturato e viene tradotto in un potenziale elettrico. Se ce ne stanno pochi, invece quel neurotrasmettitore rimane qua e viene per esempio riassorbito da dei meccanismi, perché poi qua non è che i neuroni stanno da soli, cioè insieme ai neuroni ci stanno altre decine di cellule che si occupano di fare tutto il lavoro di netturbini. Poi in realtà non si è ben capito se per esempio queste cellule, che in generale sono definite miglia, servono anche al processamento dell'informazione, e tutti si augurano di no perché altrimenti è troppo complicata la faccenda. Comunque sicuramente fanno sta cosa di riassorbire i neurotrasmettitori. E quindi questa è la cosa. Ora, come questi neurotrasmettitori incidono sull'altra parte della membrana, quindi quanti canali ionici e come ricevono questi trasmettitori, è appunto definito da una variabile che si chiama W in questo caso. Ora, se quella variabile è maggiore, vuol dire che se io ti do un segnale positivo, tu ne prendi gran parte e quindi traduci il mio segnale positivo, il mio spike, in tipo 10 mA, anzi penso 10 microampere. Se invece quel W è molto basso, lo traduci in 1 μA. Quindi è come nelle reti neurali artificiali, no? C'è un peso che indica quanto sto neurone influisce su quello successivo. Allora, il punto è che queste sinapsi sono variabili. E il modo di variare dipende da tutta una serie di dinamiche di learning, cioè di apprendimento. E queste dinamiche di apprendimento sono una roba abbastanza complicata, cioè ne esistono veramente decine di tipi, e quella, diciamo, più famosa, o quantomeno quella storicamente la prima che è stata introdotta, è questa idea che si chiama Hebbian Plasticity. Learning e plasticità sono due parole che vanno insieme, cioè la plasticità è quello che ti permette l'apprendimento. Cioè, se tu puoi cambiare sta roba, puoi imparare delle cose. E l'Hebbian Plasticity dice fire together, wire together, che vuol dire che se due neuroni sparano insieme, quindi se il segnale che io ti do fa sì che tu poi fai spike, allora quella sinapsi si potenzia. Se io invece, ad esempio, ti do il segnale subito dopo che tu hai fatto spike, tu sei nel tuo periodo refrattario. E quindi tutti i canali ionici su cui io arrivo, in realtà erano appena, diciamo, sono in una fase di, sono esausti in quel momento. Allora, ci stanno tutta una serie di meccanismi molto complicati di cui io non saprei dar conto, che che praticamente fanno sì che questi canali ionici o si chiudono o diminuiscono l'intensità oppure si modificano in modo che in realtà in quel momento la sinapsi viene ridotta. Quindi se io ti do il segnale prima che tu fai spike, io e te andiamo molto d'accordo. Se io te lo do dopo, io e te non andiamo d'accordo, perché evidentemente è che io non sono sincronizzato con te. Ok? Questa è un'idea. E questa si chiama Hebbian plasticity. Poi ci sono dei casi più complicati, che ad esempio sono la plasticità delle dendriti. Perché noi abbiamo visto quelle dendriti che stavano intorno al corpo cellulare, però in realtà... Vabbè, è arrivato il momento di far vedere questa immagine. In realtà le dendriti sono molto più complicate di quella roba. Cioè, le dendriti si estendono tipo per decine di volte la distanza del corpo cellulare. Quindi succede che quando la corrente arriva sulle dendriti, non è che quelle immediatamente comunicano al centro di controllo che gli è arrivata la corrente. Quelli integrano il segnale per cazzi loro. E lo integrano in un grafo, perché tutte queste dendriti sono degli alberi, pressoché. E quindi, ad esempio, il segnale arriva da una parte dall'albero e poi arriva anche dall'altro lato e magari si somma, oppure se arriva con dei dettagli, con dei tempi diversi, si annichilisce. Cioè, fanno delle robe abbastanza complicate e hanno anche esse delle forme di plasticità. Cioè, ad esempio, hanno il fatto che possono, a loro volta, le dendriti generare degli spike piccoli, locali, e si spike, cioè se tu arrivi 10... 10 neuroni si attivano sulla stessa dendrite, quella dendrite è molto più efficace nell'indurre uno spike in tutta la cellula che se questi 10 neuroni arrivano in un tempo sfalsato. Quindi diciamo, questo è solo per dare l'idea che all'interno di questo tipo di modelli non c'è solo chi è connesso a chi, e non c'è solo il quando ti arriva il segnale, o quanti segnali ti arrivano, ma c'è anche il in che sequenza ti arrivano e in quale punto esatto del neurone ti arrivano questi segnali. Ora, sta roba è, diciamo, il chi è connesso a chi si chiama un modello connessionista e sono quelli che, per esempio, vengono molto sostenuti da chi fa artificial neural network, perché di fatto un artificial neural network riproduce una rete neurale in un modello super connessionista, cioè c'è un solo punto e a questo punto gli arrivano dei segnali. Ora, sta cosa non è ben chiara se un modello di sto genere può dar conto della complessità della computazione che viene fatta invece all'interno delle dendriti. Io credo di no, molte altre persone credono di no, però diciamo sono scuole di pensiero e quindi così. E quindi in breve, facciamo questa, in breve, questo tipo di plasticità in realtà ne esistono di tante scale. Cioè, abbiamo da queste qua che sono a livello sinaptico, quindi come cambia l'intensità della sinapsi, che si chiamano short-term plasticity, quindi proprio cioè il fatto che ho appena fatto, appena, ti ho appena mandato un segnale che ti ha provocato un fire, e fa sì che la sinapsi sia più rilevante. Ce ne sono quelle dendritiche, ci sono la long-term potentiation o depression, quindi il fatto che queste sinapsi dopo un po' si sclerotizzano e quindi aumentano il... cioè, effettivamente la quantità di corrente che passa è di più nel tempo. E poi c'è il fatto che le sinapsi possono nascere, sta roba c'ha il tempo delle ore, mentre queste cose c'hanno il tempo dei millisecondi e dei secondi. C'è il fatto che il neurone può avere delle proprietà intrinseche che possono cambiare, e il fatto che possono nascere dei nuovi neuroni, soprattutto nella zona tipo dell'ippocampo. E c'è il fatto che ci sono dei neurotrasmettitori, quindi ci stanno tutta una serie di pazzeschi fenomeni chimici all'interno del cervello che comunque regolano come il segnale viene processato. E poi c'è il fatto che alla lunga, se per esempio tu a un certo punto smetti di parlare italiano e parli inglese per tutto il resto della tua vita, anzi facciamo che parli indonesiano per tutto il resto della tua vita, sicuramente parlerai molto male l'indonesiano, ma col tempo ti scorderai pure l'italiano. Okay, cioè perché comunque quei neuroni che in generale usavi per parlare l'italiano in qualche modo funzioneranno in un modo diverso e si riorganizzeranno e quindi ci sarà un'intera ristrutturazione della parte del linguaggio che usavi fino a quel momento. E per chiudere questa parte sui neuroni, quindi facciamo questa carrellata sui modelli che si possono usare. Allora, come vedete, Hodgkin e Huxley, sta qua giù, quello della conduttanza. Esatto, è proibitivo, però sta biological plausibility, very you. Yeah, very good. Very, very good. E poi ce ne stanno altri che so, questo qua è la riduzione bidimensionale di questo, che un po' meglio, sì, ce ne stanno tanti. E poi ci stanno quelli scemi sono tipo quelli là, quello che vi ho fatto vedere prima, quello tipo una sola equazione differenziale, cioè il fatto che io metto corrente, la membrana sale finché non arriva a un certo potenziale e poi faccio reset. E quella là si chiama integrated fire, cioè integri il segnale e poi fai fuoco. Volendo gli puoi mettere l'adaptation, quindi il fatto che se hai fatto appena fuoco poi fai fuoco più lentamente. Vediamo un po' se c'è l'adaptation qua. Io uso Adaptive Integrated Fire with Exponential. Capito? E vediamo un po', ve lo vorrei far vedere. In realtà in questo cazzo di blog nessuno ci ha messo non ci ha messo dei neuroni con l'adaptation, che invece è quello su cui faccio ricerca io, quindi questa cosa mi ha un po' frustrato. Però che ne so, ecco, per esempio questo è un modello, vediamo un po' che modello è, simple model, non mi sembra tanto simple, però si chiama simple model, e ce ne stanno degli altri, per esempio prendiamo Hodgkin e Huxley, qua le equazioni manco ce le fa vedere, vedete, queste sono tutte delle variabili che tu puoi simpaticamente settare in questo robo JavaScript, io ho adorato il tipo che ha fatto questa cosa, e ti fa vedere ad esempio come risponde a questo stimolo in corrente qua. Se tu cambi modello, ad esempio rate model, semplicemente io gli do la corrente e lui fa fuoco. È molto più, questo è un neurone artificiale con una funzione di attivazione ReLU. E no. E integrated fire è questo qua, molto scemo, quindi integro il segnale con equazione esponenziale, quindi come vedete la crescita un po' diminuisce. E poi quando arrivo sopra una certa soglia faccio fuoco. Ad esempio, di qua ci puoi cambiare il tempo refrattario e quindi ci mette un po' di più a riprendersi, oppure lo puoi diminuire, o puoi cambiare la soglia. Cioè, ad esempio, se la soglia è al di sopra del... Non, qua tu c'hai la funzione, c'hai la corrente, no? Se metto la corrente maggiore, poi ricomincia a rifar spiking. La soglia deve essere al di sotto della soluzione stabile dell'equazione differenziale. Cioè, tu sai che se tu gli metti corrente, però se il tempo scala è molto più breve, succede che comunque non arriva mai al di sopra di quella soglia. Cioè, è tipo lo stesso motivo per cui se ti lanci col paracadute arrivi a una velocità limite. Stessa idea. E vabbè, quindi questi qua sono i neuroni, penso che ne abbiamo parlato abbastanza. E questo è un network che fa spiking nel suo modello. Io mi dispiace che non vi ho fatto vedere i network che fanno spiking più fighi, ma non ce l'avevo. Mi dispiace. Però. Cioè, in realtà su internet ci sta un cazzo, io non c'avevo niente pronto. Impennante. Impennante. Sì, così. Allora, quindi torniamo alle slide. Quindi, vabbè, c'avevamo sti robbi. Allora, l'unica cosa che voglio farvi sorridere, io adoro questo grafico. Perché, come vedete, voi quale usereste? Secondo voi chi l'ha fatto questo grafico? Sì, Volpone. Poi ha fatto un sacco di altre cose, ora lavora. Ora ho scoperto di recente perché volevo fare delle robe riproducendo delle cose che ha fatto lui, allora diceva, ho detto al mio supervisor, no, pensavo di scrivergli, magari mi risponde un suo dottorando, e cazzo no, questo sta al Caltech, e mi fa, no, ma Dzikiewicz ha smesso, ho fatto, ah, che fordi, è che mo fa aspirapolveri, e quindi Dzikiewicz ora fa, se la sai questa cosa, no? Comunque Dzikiewicz fa tipo robe neurali, cioè quelle che vediamo tra pochissimo, e però... Per gli aspirapolveri, tipo quelli che trottolano per casa. Sì, si è fatto un robot. Così, mica scemo. No, ma infatti. Quindi, allora, quindi, la verità, perché la verità? Perché questa cosa dei neuroni è un delirio. Poi comunque a me piace pensare che tutta questa gente che fa neuroscienze, cioè quelli che mi pagano pure a me, in realtà non arriveremo mai da nessun punto, perché comunque noi non siamo un cervello, noi siamo un corpo, E quindi tutta una serie di cose che avvengono all'interno del nostro corpo sono terribilmente determinanti per la nostra cognizione. Mo' è vero che delle robe avvengono all'interno del nostro cervello, poi tra l'altro faccio linguaggio e quello mi piace pensare che se c'è una roba che può essere veramente legata al cervello, o il linguaggio o il fare decisioni. Però comunque il modo in cui noi parliamo e interagiamo col mondo è molto legato allo stato dei nostri organi interni, dall'intestino. No, allora, quando si parla di cervello, il cervello è diviso in tre parti, che sono evoluzionaristicamente conservate, e sono il cervelletto, che viene anche chiamato hindbrain, il mesobrain e il forebrain, dove l'hindbrain è quello che diciamo noi condividiamo veramente con tutti gli altri esseri viventi. Sì, dai rettili in poi è più o meno lo stesso per tutti, cioè è composto da questo tipo di neuroni, è anche il motivo per cui se lo inculano di meno, perché è composto da dei neuroni molto piccoli che fanno un'integrazione molto locale, sembra che sia molto semplice quello che fanno. No, il midollo spinale non è cervello, il midollo spinale credo che possa essere chiamato sistema nervoso periferico, ma non ne sono sicuro sicuro, perché comunque ho fatto fisica, non biologia. Cognitivamente avanzate, qualsiasi cosa questo possa voler dire, ad esempio il decision making, ad esempio la visione e così via. Però in realtà la corteccia è connessa, ma proprio tipo fortissimamente, tant'è che si chiama circuito talamo-corticale, con il talamo, che invece è la parte, è tipo un hub, e sta in mezzo tra la corteccia e l'hindbrain, cioè ci sta tutto un sistema che si chiama sistema limbico, e tipo quando viene la tremarella, ci avete paura, non è la corteccia che fa quelle robe, ma è il mesobrain, cioè il sistema limbico, che è lo stesso è quello che condividiamo con animali un po' più grandi di un... Sì, no, in realtà pure il topo c'è il sistema limbico, cioè ad esempio quello che ci fa frizzare dalla paura e che fa frizzare pure i topolini è il sistema limbico, che ti manda in pappa il... Ti manda in pappa la corteccia, ti manda in pappa, cioè non riesci a prendere decisioni in quel momento. Quando ti innamori, tipo che senti tutta la roba, no? E quello è il sistema limbico uguale. E così, cioè tutta la roba, diciamo, più forte dal punto di vista anche comportamentale è legata al sistema limbico e non tanto alla corteccia. La corteccia fa cioè sicuramente fa il calcolo, vede le immagini, c'è cioè la corteccia uditoria, c'è cioè il linguaggio. Però tutte queste robe un po' più gagliarde, volendo, no? Cioè, boh, non lo so, sono punti di vista, perché poi in realtà sembra che, per esempio, il linguaggio sia fondato molto sulla sincronizzazione e sui tempi, e quindi non può funzionare se tu, per esempio, non lo articoli bene, no? Cioè, le persone che non articolano bene il linguaggio non riescono neanche a scrivere o a imparare delle robe, perché comunque c'è bisogno di articolare. Per dar senso ai simboli che stai usando. Però sta roba è abbastanza complicata. E poi ne parliamo. Allora, quindi, algoritmi. Quindi, dato sto mondo, ci si possono fare degli algoritmi sopra. E allora, gli algoritmi sono intesi in un modo di vedere le neuroscienze che è legato alla computazione. Cioè, non è sempre stato così. Cioè, tipo, fino a prima del computer, non è che davvero si diceva computazione, pure perché forse il termine manco esisteva, però le neuroscienze esistevano già prima. Cioè, comunque hanno iniziato nel Novecento a guardare i neuroni, pure fino all'Ottocento. E quindi sta roba è un modo di vedere il funzionamento del cervello, che è molto legato a come intendiamo noi il mondo, no? Cioè il fatto che comunque, no, questa roba da noi, Dagger la capite molto, il modo in cui noi vediamo le cose dipende anche dagli strumenti che noi abbiamo per misurarli, no? Cioè la famosa frase, se hai un martello tutto il mondo sembra un chiodo. Molto famosa dalle parti mie. E quindi comunque la computazione del sistema nervoso che piace anche molto a chi fa informatica o computer science o così, è intesa come un trasferimento, un processamento e uno stoccaggio di informazione, non di formazione, di informazione. E quindi tiene conto appunto del processamento, della memoria, e del decision making, del come questa informazione si passa da una parte all'altra. Ora, il punto è che sta roba in realtà ha molte contraddizioni che sono legate al fatto che noi di solito siamo abituati a interpretare un sistema che processa l'informazione come degli utenti finali. Cioè, noi siamo abituati all'idea che qualsiasi simbolo infiliamo all'interno di una macchina, siamo ok se la macchina non capisce quel simbolo. Cioè, siamo tranquillissimi che la macchina non potrà mai capire quel simbolo, lo potrà solo processare e mettere in relazione con altri simboli. Potrà avere delle regole di composizione di simboli che gli abbiamo messe noi, una grammatica e così via. Ora, se noi prendiamo per esempio un pattern di firing, di spiking neuron che comunica qualcosa a qualcun altro, quello volendo lo si può chiamare un simbolo, no? Cioè la particolare sequenza di potenziali d'azione che arriva da una parte all'altra. Quello lo puoi intendere essere un simbolo per qualcosa. Ad esempio, se tu prendi la corteccia visiva, è quella più studiata, e se tu ti metti con gli elettrodi sulla corteccia visiva, c'hai che praticamente se ti faccio vedere delle righe che si muovono in una direzione piuttosto che in un'altra, diverse zone della corteccia fanno firing. Ok? E allora alcuni hanno detto: ah, che figo, fanno firing con una frequenza proporzionale alla velocità con cui si muovono queste robe. No, pensa che bello, tu c'hai tipo sta cella, e se tu le muovi molto veloce, invece se muovi piano fa firing più lento. Ok? Sta roba ha gasato molti per diversi anni, poi in realtà ci si è resi conto che sta roba era assolutamente implausibile. Era implausibile perché, per esempio, se tu prendevi l'animale e gli davi, invece che le righe, gli davi i puntini che si muovevano in quella direzione, con la stessa velocità, quei puntini scaturivano delle eccitazioni completamente diverse. E ad esempio poi c'era l'adattamento, cioè il fatto che se le guardi per 10 minuti poi cambia il modo in cui quei neuroni rispondono e così via. Quindi sta roba non era davvero troppo plausibile questa interpretazione, però ha dato adito negli anni a un modo di intendere neuroscienze come il fatto che esistono delle zone del cervello che ricevono delle informazioni da altre zone di cervello e le ricevono attraverso una sequenza di spike ben determinata. E ora, questo modo di vedere le cose ti fa pensare che se tu, per esempio, ti metti là e gli dai un elettrodo, quell'elettrodo poi scaturirà un'informazione in una certa zona di cervello. E sta roba, per esempio, ok, un'altra cosa, se tu, per esempio, vuoi fare questa misura, mediamente non fai una sola misura, ma fai la media su 10 minuti di misura che stai a fare. Quindi ci avrai una media del firing rate che gli sta arrivando a quella zona di cervello. Però in realtà il cervello non fa la media, cioè il cervello si prende quei potenziali d'azione, che è lo spike. A spike si dice potenziale d'azione. Il cervello si prende quei potenziali d'azione e processa con quelli. Quindi non fa la media, non sa quello che gli arriverà dopo. Quindi il come veramente venga trasmessa l'informazione nel cervello, quindi quello che si chiama il codice neuronale o neuronal code, è incognito. No? Ci sta chi dice il firing rate, ci sta chi dice spiking code, quindi so, i singoli spike che in realtà trasmettono l'informazione, c'è chi dice che l'elemento importante è l'intervallo di tempo tra due spikes. No? Perché, cioè, per esempio, se tu componi in segnali come gli intervalli di tempo tra due spikes, se metti che ogni spike ci mette tra i 30 o 50 millisecondi, in un secondo tu puoi fare, metti che in media ci mettono 20, 40, quindi 40 secondi, 40 millisecondi, in un secondo c'entra 1 diviso circa 200, quindi c'entrano circa 200 spike, e li puoi comporre 1 da 30, 1 da 50, 2 da 30, 1 da 50, e quindi puoi fare così che con 200 spike puoi fare 2 alla 200 combinazioni. Okay, quindi il tuo messaggio che puoi mandare fa parte di un set di 2 alla 200. Se invece lo fai col firing rate, il segnale è molto minore, il range di segnale che puoi mandare. E E quindi in generale, boh, sta roba, senza, scusate, la sto mandando un po' in caciara, comunque per dire che comunque il coding neuronale non è ben compreso. E la memoria allo stesso tempo non si è ben capito, perché la memoria potrebbe essere all'interno delle sinapsi, però le sinapsi cambiano nel tempo, quindi potrebbe essere invece nelle macro collegamenti tra una zona e l'altra, o potrebbe essere nel numero dei canali ionici all'interno del singolo neurone. E anche in quel caso, diciamo, il che cosa è la memoria non è proprio ben definito. Comunque, queste persone di cui parleremo tra poco hanno deciso che loro lo sanno, e o comunque che loro hanno un'interpretazione che funziona abbastanza bene per i loro computer, quindi non c'è bisogno che il computer capisca che cosa vuol dire il segnale, va bene anche solo che lo elabori in base a delle regole prefissate. E quindi un modello di fare questa roba, che a me piace tanto in realtà, si chiama reservoir computing. Qualcuno di voi ne ha mai sentito parlare? Il reservoir computing si basa su quell'altra roba che si chiama reservoir. Come si chiama reservoir? Non c'è un altro modo. L'idea del reservoir computing è quella del fatto che il cervello non processa mai un segnale nuovamente come se nulla fosse accaduto prima, ma è sempre come non un automa a stati finiti. Vabbè, non mi fate far paragone con le cose computazionali perché poi non me ce li trovo. Comunque è in un determinato stato, cioè ad esempio lo stato può essere definito dal potenziale di tutte le membrane, di tutti i neuroni all'interno del sistema. Quindi tu c'hai per esempio 100 neuroni, c'hai 100 variabili che so il potenziale di membrana dei 100 neuroni. E poi gli arriva un segnale, gli arriva un input. E questo input però va a impattare su un sistema che già stava in un certo stato, ok? Quindi c'è in qualche modo che il tuo stato definisce la memoria del sistema. E quindi arriva un nuovo segnale, e quel segnale viene integrato in un sistema che però già stava in una certa condizione, e quindi si modifica in una maniera che non cancella l'informazione precedente, ma la integra con l'informazione che sta arrivando nuovamente. Ora, che succede? Che poi se tu ti ci metti, questa roba funziona solo nei computer, ok? Cioè, questo modello non è biologicamente plausibile, perché in questi modelli qua ci si mettono sti aggeggi fuori che si chiamano readout, che hanno il fighissimo potere di poter leggere la membrana di ogni neurone. Ok? Ovviamente questa cosa non succede nel cervello perché ogni neurone comunica con un altro solo attraverso gli spike. Quindi non è che c'è un neurone che possa sapere quel neurone là che membrana c'ha. Ora però qual è il punto? È che se io per esempio ti mando un segnale bidimensionale così, e tu ti dico distinguimi tra le palline rosse e le palline blu, è una roba che in machine learning si farebbe con kernel qualsivoglia, quindi cerchi... Boh, non so, non voglio essere tecnico, però una support vector machine con un kernel sarebbe un particolare algoritmo di massimizzazione dei cluster. Ci metti in kernel, cioè una roba che anziché divide con piano, te la divide con delle curve, e tu riusciresti tranquillamente a di questa curva qua e quello che c'è fuori, ok? Però se tu lo vuoi fare in un classificatore lineare, quindi vuoi dividere con un piano, una retta, una linea, non potresti mai dividere quella roba là. Ora, i classificatori lineari hanno una serie di proprietà belline, il fatto che ci puoi, per esempio, vabbè, sono più facili di fatto. Cioè, sono più facili... certo, un piano è più facile di una curva. E c'hanno un'altra serie di proprietà che io in realtà neanche saprei descrivere. Comunque, i classificatori lineari sono sempre molto fighi, è per questo che si usano i kernel. Perché tu c'hai un sistema che in realtà è un classificatore lineare, ci metti in kernel, e quindi adatti un classificatore lineare a uno non lineare. Ora, qual è il punto del reservoir computing? È che tu, il tuo segnale, c'ha molte dimensioni di meno di quelle in realtà della rete interna. Cioè, tu metti un segnale che, per esempio, qua è bidimensionale, e io, sbam, te lo schiaffo in tre dimensioni. Ok? Oppure qua metto un segnale che, per esempio, ha sei variabili d'ingresso, e queste sei variabili d'ingresso le traduco in 1, 2, 3, 5, 6, 12 potenziali di membrana. Quindi aumento di brutto la dimensionalità del sistema. Ora, sta roba sembra una cosa scema, perché con un sistema più grande devi fare più conti, però in realtà c'è il fatto che il sistema, se è abbastanza grande, poi divide con piano. Ok? Quindi tu alleni un classificatore lineare su un'espansione del tuo problema. Il tuo problema lo allarghi, cioè quindi ogni variabile qua, no? C'è un punto nello spazio bidimensionale che viene riportato più o meno, ma in realtà manco, c'è un punto nello spazio bidimensionale che viene mappato con un punto nello spazio tridimensionale, in cui il, per esempio, l'altezza me la sto inventando qua, cioè l'altezza è legata a quale neurone arriva quel segnale, cioè è una roba totalmente arbitraria. Il segnale arriva qua su 6, io questo qua lo connetto con questo e quindi ho legato questa dimensione qua a queste tre dimensioni qua, quindi l'ho ampliato in una maniera arbitraria, ho scelto io come allargavo sta roba. Allora, queste reti che vengono usate per questo scopo si chiamano, sono reti ricorrenti, sono reti che di fatto sono state dimostrate, vabbè questo viene dopo, vabbè sono reti ricorrenti, tenemolo da una parte, e si riesce a fare sta roba veramente molto bene. Cioè ci sta in particolare un gruppo di ricerca in Austria che si chiama Maas, il tipo, e lui è veramente molto figo, cioè punta a farci machine learning spintissimo su queste cose, perché funziona veramente abbastanza bene. Cioè hanno provato sui dataset generici, quindi diciamo non hanno mai fatto delle robe particolarmente spinte, cioè paradossalmente MNIST è il dataset più usato per fare questo tipo di classificazioni, e solo che sono molto molto contenti. In più, sempre loro hanno fatto un'implementazione della backpropagation, che è un algoritmo di reti neurali artificiali che funziona, che tu cambi i pesi in funzione del tuo score, quindi se tu stai a fa bene, quel peso o aumenta o rimane uguale. Se stai a fa male devi cambiare quel peso, e lo si fa perché si differenzia tutta la catena di azioni che ha portato a fa quella scelta, e quindi si fa per ogni pezzo della derivata si cambia il peso della connessione. Vabbè, non è questo comunque il punto è che sono riusciti a fare una roba molto simile per una roba spiking neural networks, perché in realtà nelle spiking neural network fare backpropagation è pressoché impossibile, perché tu non hai un intervallo di tempo all'interno del quale sono successe le cose, quindi tu non sai se quel segnale, il problema è che ti è arrivato da quel neurone o che ti è arrivato al tempo sbagliato, ok? Quindi mentre nella rete neurale artificiale c'è un clock e tu sai, mi arriva sto segnale mi fa fare una scelta, io devo modificare quel segnale se la scelta era sbagliata. Nel caso del neurone, mi arriva sto segnale, ho fatto sta scelta, ho sbagliato, ma dovevo modificarlo che questo potenziale d'azione dovesse arrivare prima, oppure non doveva arrivare proprio, oppure dovevo metterci un altro valore per la sinapsi, e così. Loro hanno fatto un algoritmo veramente molto sofisticato, che c'ha un paper di 37 pagine, che me ne sono lette poche, e perché non è veramente il mio lavoro. E comunque hanno fatto questo algoritmo molto sofisticato in cui quello che fanno è, scusate qua le mie slide fighissime non hanno retto la botta, tengono conto, oltre dello stato del sistema al certo intervallo T, si tengono conto pure di un'altra variabile che la chiamano eligibility trace, che non ho idea di che cazzo voglia dire, e quest'altra variabile dice chi è il responsabile di quella scelta al dato tempo. E quindi praticamente facendo questa roba loro possono fare una correzione dell'errore andando a modificare le connessioni che quell'eligibility trace diceva era quelle rilevanti. Cioè di fatto, anziché, mentre nella backpropagation alla fine del processo mandano un segnale indietro, in questo sistema qua loro si tengono una variabile d'appoggio che tiene traccia di come il sistema si è evoluto e poi vanno a modificare quei neuroni, vanno a modificare le connessioni di quei neuroni che la variabile d'appoggio gli ha detto sono quelli importanti. Allora, l'idea è che se questa variabile d'appoggio la prendi abbastanza larga, tu hai tutto il sistema sotto controllo e quindi potresti fare del learning fatto veramente molto molto bene. Ovviamente non puoi davvero farlo perché quella variabile d'appoggio tiene conto di un sistema continuo e quindi diciamo, cresce enormemente in memoria a seconda dell'intervallo di integrazione. Quindi ci stanno delle diverse approssimazioni in cui fanno vedere che di fatto questo sistema funziona anche con delle approssimazioni relativamente semplici. Mo' io vi ho detto il nome di sto robo, se siete veramente entusiasti andate a guardare, penso che prima o poi ci farà anche delle robe più divulgative, ma al momento il paper è un delirio, sono veramente 40 pagine piene di formule, se volete ve lo do il paper, tanto lo ristampo e via. Quindi questi sono i due algoritmi, cioè questi sono i modi in cui le persone oggi, in cui uno dei maggiori esponenti delle neuroscienze computazionali, che è Thomas, intende la computazione neuronale, cioè quindi avere un sistema che gli permette di classificare uno stato dimensionalmente molto ampio, che ha espanso la dimensione del segnale in entrata, e farci del learning sopra con delle robe che loro chiamano biologically inspired. Boh, se è vero che siano biologically inspired, davvero non lo so, però comunque funziona e lui era molto, io sono stato a un suo talk un po' di tempo fa, che ha presentato malissimo, quindi mi ha proprio, ecco io. E quindi io volevo capire veramente lui che avesse fatto, però era presentato proprio male male, quindi non ci ho capito niente. Però comunque questo è. Però bravi, però bravi. Cioè, no, veramente, bravi, bravi. E allora, qual è quindi il punto? Perché sta roba anche è interessante? Allora, queste cose piacciono molto perché, cioè, perché la gente vuole fare machine learning su un modello computazionale che in realtà non è ben chiaro come funziona e che al momento attuale, cioè l'unica cosa che gli riescono a fare e fa un'espansione dimensionale del tuo segnale in input. Cioè, questo non è. Non sta a computare questo. Cioè, non sta a computare, è una rappresentazione. È una rappresentazione che è figa perché riesce a tenere dentro la variabile temporale, però non è davvero una computazione. Cioè, devo stare io fuori a leggere, altrimenti non esce niente da quel sistema. Il sistema dopo un po' muore anche. Cioè, gli spaghi neural network, tu per farli funzionare gli devi dare un rumore di fondo, cioè no, sta roba è strana perché non si è capito questo rumore da dove cazzo viene. Comunque, per farli funzionare, li devi mettere in uno stato che si chiama alta high conductance state, che sarebbe che sono molto sensibili agli stimoli che gli arrivano da fuori, e quindi devi mettere un rumore bianco per metterli in quello stato là. Ora, quindi sto sistema, se tu, a parte se togli il rumore bianco, ma se aspetti dopo un po' che l'input è entrato, in realtà quel sistema si è resettato, si è pulito da solo, quindi non sta davvero facendo computazione, fa solo un'espansione, una rappresentazione più ampia del tuo problema in uno spazio che tiene conto del tempo. Ok, quindi perché sta gente ci sta a spendere questi soldi? Perché sembra, e questo l'ha detto la tipa della Intel in questo seminario dove sono stato di recente, sembra che. No, forse viene dopo. Forse viene dopo. Sembra che nella legge di Moore, né quell'altra, diciamo, meno famosa ma altrettanto importante di Dennard, reggano più la botta del millennio. Nel senso che fino a 15-20 anni fa, in particolare quella di Dennard è quella più cruciale qua, e scalare la dimensione dei transistor scalava anche l'energia che serviva per farli funzionare. Quindi transistor più piccoli, meno corrente, meno dissipazione, meno calore. Sta roba da un po' è finita? Mo, se voi sapete il perché, raccontatevelo. Però io non lo so. Fatto sta che non ci sono state abbastanza innovazioni nel mondo dei materiali per mantenere questo scaling. E quindi tant'è che si sono fermati a mettere, per esempio, cioè il numero di clock su un processore è più o meno quello da 10 anni, cioè siamo su 2-3 GHz, non si cresce più di quello. E questa roba non è legata al fatto che non puoi tanto comprimere altri transistor, ma al fatto che se tu li comprimi poi scaldi tanto. Quindi la maggior parte delle innovazioni ad oggi le stanno facendo sul risparmio energetico. Quindi sta roba del salvaguardare l'energia non è tanto solo una fricchettonata della Greta Thunberg, ma è anche il fatto che comunque se tu le vuoi mettere tutte insieme queste robe ti servono dei sistemi per ventilare e quindi c'hai dei parametri al di sotto del quale non si può andare. Inoltre, quindi questo è un problema. Forse c'è una slide che parla di questo problema, ma questa invece parla di un altro problema. Allora parla del come prima c'erano le CPU e poi sono arrivate le GPU, almeno per fare machine learning. Ora, la grossa differenza tra le CPU e le GPU è in una CPU c'è un processore che ci puoi mettere un po' di memoria in cache, però la gran parte della memoria della macchina di Turing, cioè sto nastro, sta da un'altra parte. Quindi ci mette abbastanza tempo. Per esempio il processore dovrà dire al bus, vai a prendere quell'informazione là, e quell'informazione là deve viaggiare sul bus fino a che non arriva là. Allora, questo robo si chiama Von Neumann bottleneck, perché Von Neumann diceva di mettere il processore da una parte e i dati dall'altra. Ora, sta roba l'hanno mezza risolta nelle GPU, mi è sembrato di capire, ma lo stesso questo non è il mio ambito, quindi se dico una castroneria riprendetemi. Perché in una GPU tu gli metti la memoria, tu gli metti il dato all'inizio e poi questo dato viene processato a cascata all'interno del sistema e non viene in qualche modo, non devi andare a ripescare sulla memoria. Ora, quello che veramente vorrebbero fare queste persone è giusta questa cosa della GPU? È più o meno così? Ok. La roba dei invece la roba di sti neuroni, qual è la cosa figa? È che sti neuroni, non è che ci stanno dei neuroni che si occupano di averci le cose in memoria e dei neuroni che la processano. Cioè ci sono anche delle persone che dicono così. Cioè ad esempio ci sta un modello computazionale del cervello in cui dice il cervello è uguale a una macchina di Turing, c'è un'entità che si occupa dell'unificazione dei simboli, però i simboli stanno sparsi. E quindi tu fondamentalmente gli spike li intende come i sistemi per richiedere, cioè i bus del cervello. Questa roba in realtà non piace molto a tutti, a me per esempio per poco e alle persone con cui parlo anche piace poco, quindi, però magari è così. Comunque, altri modi di vedere le cose dicono che invece la memoria è all'interno dei neuroni, cioè il modo in cui io reagisco al mio stimolo è la memoria. Quindi, esatto. Esatto. Sì, è tutto il RAM, però è proprio l'idea che non è che, cioè non ci stanno più dei computatori universali, cioè non ci stanno non puoi girarci in qualsiasi algoritmo, ma l'algoritmo è definito dal particolare componente che stai utilizzando. E quindi se per esempio con l'isteresi, de fatto. Cioè, il modello di riferimento sono le isteresi. Le isteresi sono il fatto che se io ho fatto, se io per esempio ho magnetizzato un pezzo di ferro, quel pezzo di ferro rimane magnetico, ok? Tant'è che sono i sistemi magnetici quelli che vogliono usare per fare sta roba, cioè non bisogna andare tanto lontano. E quindi, una volta che ho dato un campo, che ho modificato quel componente continua a rispondere in una maniera diversa che se non l'avevo modificato prima. Ok? Quindi questa si chiama isteresi magnetica, è il fatto appunto che se tu dai un campo a un pezzo di ferro, poi togli il campo ma il pezzo di ferro rimane magnetizzato. Ok? Quindi di fatto questo è il modello di fisica dei materiali di riferimento. E poi ci stanno delle robe con la semiconduttività, quindi ad esempio se ti applico una tensione ti metti in un regime di semiconduttività che è diverso che se non te l'applico, cioè diciamo utilizzano delle feature dei materiali in cui di fatto anziché avere uno stato binario hanno una molteplicità di stati, quindi tu mentre in un device computazionale standard tu vorresti che lo stato 0 fosse il più distaccato possibile dallo stato 5 volt perché così non puoi fare errore, In questo tipo di sistemi vuoi invece lo stato 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10 millivolt, 10 volt. Ovviamente la questione difficile è che tu, aumentando il numero di stati, a parte te devi inventare degli algoritmi diversi, che al momento non è che ci stanno davvero, e inoltre devi avere delle... devi avere comunque la sicurezza che quello stato sia stabile. Ora, non è che d'altra parte ci sia proprio dell'accordo sul parlare del... cioè il cervello non è proprio che non succede niente, cioè è un sistema che sta sul prono del caos, no? Sull'edge del caos, cioè che tu c'hai delle scariche di spiking e che queste scariche sono asincrone e che quindi fondamentalmente sono abbastanza imprevedibili. Quindi se tu metti uno spike o non lo metti, cambiano molto le cose. Ora, io ultimamente sta roba la sto studiando, mi sono messo a guardare dei modelli che praticamente riproducono una parte di corteccia. Allora, sti modelli, ci sta chi per esempio all'interno di questi modelli mette una feature la stabilità. Cioè io metto uno spike e comunque il sistema più o meno c'ha quella dinamica là. Ok, quindi il numero di spike, ad esempio, che vengono emessi in un certo intervallo di tempo non cambia tanto. E vabbè, quindi per chiudere sta roba del... vabbè, ci stanno sti sistemi che possono averci più stati, ma non mi ricordo il cazzo stati. Comunque, allora, poi ci sta sta faccenda su Turing, non si è capito, io poi sono una pippa che ho fatto fisica, non ci ho mai capito avere un cazzo di computazione. Cioè, sembra che le reti neurali artificiali in realtà siano Turing complete. Turing complete. Cioè, alcuni di questa pagina ho preso da Wikipedia. Sto tipo a Neural Turing Machine, un tipo di rete neurale ricorrente che sto tipo ha dimostrato che in realtà è programmabile e può fare più o meno tutto, cioè fa quello che può fare un computer. Quindi una rete neurale artificiale può fare esattamente le cose che può fare un computer. Ora, il punto, credo che il problema è che mentre il computer sia facile trovare l'algoritmo giusto, non credo che sia equivalente per una rete neurale artificiale. Cioè, tu non c'hai, c'hai un sistema, ma non sai qual è l'algoritmo che ti permetterà di fare quella computazione. E la rete neurale a cui si riferisce lui è di tipo artificiale, quindi so up-down, cioè... sono solo due stati, cioè non c'ha le complessità del sistema biologico. Anche le spiking, cioè sicuramente delle spiking dovrebbero essere più potenti delle reti neurali artificiali. Ora, il punto è che mentre provate a fare sta cosa, bella, no? 1 più 11 face, 23 per 5 face, 25 per 77, dai. Quest'altro se fa quello... no? Però invece facciamo... chi era? Capito? Cioè... sì, è molto facile fare una cosa molto difficile. Bravo! Quindi le spiking neural network... cioè un computer mica era brava a riconoscere Stallman. Quante volte l'hai visto Stallman in vita tua? Comunque mi ha affascinato e mi auguro che negli anni poi mi avvicinerò di più verso una formulazione almeno più esatta di questa domanda. Cioè non verso la risposta, non credo che quella sia la... almeno mi accontento della formulazione buona della domanda. Il punto è, ma no, ad esempio questo è un paper di neuroscienze computazionali che dice la computazione digitale è una roba, in generale la computazione è qualcosa ma che non è importante definire. C'è quella digitale, che la sappiamo definire molto bene con la macchina di Turing. C'è la computazione analogica, che so, per esempio, integratori, soglie e così, no? Cioè, tutte le cose che, ad esempio, possono essere fatte con i giochini di Zio Peppe e là. E poi c'è la computazione neurale. Cioè, la computazione neurale non è detto che possa essere definita con gli stessi modelli con cui è definita la computazione digitale. Cioè, potrebbe anche essere un bias proprio nostro, scientifico, di vedere le cose in questo modo. E quindi, in generale, uno... cioè, anche il fatto è siamo solo dei classificatori, però in realtà c'è sempre una risposta di comportamento, quindi in realtà non siamo solo dei classificatori, ma abbiamo sempre una risposta di comportamento. Ma se tu estremizzi sta roba, arrivi al behaviorismo, che invece è abbastanza una merda. Quindi, cioè, no, ci sta da qualche parte, là è importante quello che ci succede nel cervello e quindi come reagiamo agli stimoli e forse anche la classificazione che facciamo di ciascuno stimolo, però poi ci dobbiamo mettere tutta quella complessità di organi che ci abbiamo anche al nostro interno. Quindi diciamo che secondo me questa roba da una parte lascia tranquillamente aperta la domanda che cos'è la cognizione e che boh, forse qualcuno avrà appunto la capacità di formulare questa domanda in una maniera più efficace negli anni. E d'altra parte ci fa stare abbastanza sereni sul fatto che comunque questi si possono inventare chip che gli pare, ma tanto, no? Non preoccupatevi, esatto. Cioè, perché comunque, sì, perché comunque, ecco, la cosa che riescono a far bene con sti chip è la classificazione. Però dire che noi siamo solo, cioè, no, c'è sempre il punto non ridurre l'essere umano al computer perché se è l'unica cosa che sai fare, cioè cercare di mantenere l'idea di quello che poi del fatto che comunque la cognizione non è un sistema computazionale e può essere anche molto più complessa di quello che, cioè lo stesso linguaggio, no? L'idea del linguaggio è la roba più formale dell'essere umano, la puoi intendere come un modo astratto di processare i simboli, però poi vai alla ciccia e ti rendi conto che ci stanno dei simboli che comunque devono essere fondati su delle cose, altrimenti non, nulla ha significato, no? Io sono stato sempre molto affascinato dalla filosofia francese, lo strutturalismo, questa rete dei simboli che ogni volta cambia, però poi se ci vai a pensare comunque delle robe devono essere incorporate, tant'è che esiste una teoria anche molto figa che si chiama embodied cognition, che quelli che si chiamano in gergo tecnico qualia, cioè i fenomeni della coscienza, questi fenomeni che possono essere ad esempio le parole, devono essere in qualche modo incorporati sul fatto che abbiamo un corpo, che siamo un corpo e che non si possono togliere da là. Quindi vabbè, questa era la fricchettonata, però comunque ne potevo parlare dopo. Quindi, per chiudere, qua c'era la parte sulla legge di scala di Moore, e sì, io ve l'avevo promesso, non avrei parlato molto di sti chip. Ah no, qua, vabbè, questa è zompata l'immagine, era bella sta immagine, aspetta, la faccio vedere. Vabbè, sta immagine diceva che di fatto il cervello consuma 20 watt e se tieni conto che ogni sinapsi la consideri come un bit, c'ha 10 alla 14 bit, però ovviamente abbiamo detto che le sinapsi non sono veramente dei bit perché possono stare in molteplici stati e in più dipende anche le combinazioni di esse. Cioè 10 alla 14 bit, consuma 20 watt e funziona un sacco figo. E invece il computer più grosso del mondo, che è questa specie di sole che si vede sotto, se vuole fare una simulazione del cervello, una simulazione vuol dire che non è che fa davvero quello che fa il cervello, cioè ma riproduce approssimativamente quello che è la trasmissione elettrica all'interno del cervello, ci mette 12 gigawatt, usando dei modelli plausibili. Quindi sta roba ci fa capire che sicuramente sono dei modelli computazionali molto diversi e che funzionano in maniera molto diversa e ci fa anche capire perché queste persone sono interessate a qua lo chiama Blue Gene Q, che è una roba dell'IBM, sì, no? Quello è Blue Brain Project, quello, no, sì, tra l'altro quello è fatto sul cervelletto del topo, su quello ne so un po', sì. E comunque hanno fatto un pezzo, eh? Cioè, pezzetto, tipo... Sì, pezzetti. Sì, no, io in realtà quella roba l'ho studiata un po', e ci sono delle cose interessanti, però comunque se ne parli con le altre persone ti dicono tutti, vabbè, abbiamo riprodotto sta roba, ma non è che abbiamo capito qualcosa. Perché... Sì, no, cioè comunque quando fai un pezzo di cervello di dopo, e lo vuoi fare veramente... Sì, no, diciamo che fanno così, cioè fanno pure delle misure in vivo, però io già ho paura che qualcuno mi meni a un certo punto, quindi non voglio continuare a insistere, ho avuto una brutta esperienza con queste robe. E, sì, comunque, cioè, quando fai un pezzettino di cervello, ti rendi conto che dentro ci stanno tutti questi neuroni, che ognuno fa delle cose diverse. Poi, tra l'altro, non ne ho mai parlato di sta roba, ho sempre detto neuroni in generale, ma ne esistono almeno due tipi ben definiti, che sono quelli che siano piramidali eccitatori e quelli inibitori, cioè che hanno dei tipi di sinapsi completamente diversi e che alcuni smorzano l'attività e altri la eccitano. Ok? Di quelli inibitori ce ne stanno tipo due tipi grossi, che sono quelli che fanno molto veloce gli spike e quelli che invece ci mettono un po' di tempo. In tutto, il tipo che ha fatto Steven ha fatto 300 micron quadrati di cervello di topo, aveva 507 tipi di cellule diverse. Volendo, non lo so, io con quel mio dottorato lo pagano, quindi sti cazzi. Comunque, se volete andare a vedervi sti neuromorphic device, io ne ho presi i tre che erano quelli che più sono quotati di finire nel mercato. C'è True North dell'IBM, che, boh, cioè, nel senso, io queste slide l'ho fatte anche perché mo pensavo di metterle sul sito così, se poi le volevate usare come riferimento, la qualunque, stavano poggiate là. E quindi ci ho messo, boh, un po' di link così, Braindrop è una roba californiana, e tutti più, poi ci sta Brainscale in Europa, e Loi invece è una roba della Intel, e ha fatto, boh, è quello che mi sono guardato un po' di più, e fondamentalmente, ecco, riproduce, cioè, le sinapsi, le dendriti e l'assone, c'ha, cioè, un meccanismo di learning, vedete, il meccanismo di learning sta sempre sulle sinapsi, cioè, perché comunque il paradigma connessionista è sempre quello dominante, quindi tu c'hai che sono le sinapsi che fanno la memoria. E poi, se davvero è così, non si sa nel cervello, però nei loro sistemi funziona abbastanza bene, è anche il modo più semplice di connettersi alle reti neurali artificiali, anche perché spesso, per esempio, nei sistemi che non fanno reservoir computing ma fanno forward computation, quindi alla fine è l'IR alla fine che fa la classificazione, cioè io metto un segnale, il segnale passa, arriva alla fine e ti dico se va a destra o a sinistra. Di solito li fanno allenando la rete neurale artificiale, poi prendono i pesi, li copiano dentro la rete spiking e sfruttano il fatto, perché sta roba consuma di meno, sta roba forse non l'ho detta, consuma di meno perché queste robe sono accese tipo a 10 Hz, cioè 10 Hz è già un'alta frequenza e ogni 10 Hz fanno un solo spike, quindi fanno un'emissione di corrente una sola volta, 10 volte al secondo, che è differenza invece di device che sono accesi tutto il tempo che lavorano. E quindi questa roba sfrutta la sincronicità e il fatto che la maggior parte del tempo stai spento per consumare meno energia, perché altrimenti devi dissipare. E quindi fanno retina artificiale, allenano le retina artificiali, le alleni una volta, e poi ogni volta che devi fare la classificazione li metti su spiking, e quindi fai la classificazione spiking. Questa roba è molto comune, si fa abbastanza, e mi sembra che dava anche dei risultati decenti. E quindi loro si propongono di fare, cioè hanno fatto sto chip, in realtà penso che a novembre di quest'anno dovrebbe essere sul mercato, quindi magari l'anno prossimo qualcuno di noi se l'ha comprato perché non c'era un cazzo da fa e ci ha giocato. E non lo so, secondo me è quello tra quello più votato al grande pubblico, lui. Quindi così è fatto, appunto, è composto da, cioè poi la cosa figa di questi sistemi è l'intrinseco parallelismo che è possibile avere, il fatto che comunque tu c'hai un chip che c'ha 10.000 neuroni, metti due chip a fianco e c'hai 20.000 neuroni, perdi del tempo nel bus, sì, sono d'accordo, però comunque ti accontenti. E quindi sta roba è abbastanza potente e rischia di scalare. Quindi, infatti, per concludere, vi dico perché l'hanno chiamato LOI, perché per chi non lo sapesse, ignoranti, LOI è uno dei vulcani più attivi dell'arcipelago delle Hawaii, e è uno di quelli che prometterà di evolvere ancora molto nel tempo, cioè mentre gli altri stanno un po' in declino, questo invece è bello che, insomma, no? Sottomarino, sì. Ah, c'è scritto qua? Esatto, che un giorno arriverà sulla superficie, quindi state sereni che ne vedremo delle altre. Così. spero che vi abbia dato qualche informazione utile, e se volete fare delle domande vi posso indirizzare a qualcuno che ha delle risposte.